cioè l'idea è che non si deve affrontare il problema della povertà o di altri disagi sociali solo con dei trasferimenti monetari passivi, cioè degli aiuti che lasciano le persone nella situazione in cui si trovano, senza coinvolgerli per appunto o svolgere attività utili socialmente o, e penso anche e soprattutto, per mettere in piedi delle azioni che ne permettano l'inclusione sociale. Cioè, quando noi parliamo di povertà, generalmente la povertà non è solo una deprivazione materiale, ma si associa ad altre dimensioni dell'esclusione sociale, il disagio abitativo, la difficoltà di accesso all'istruzione, alla salute, l'emarginazione in tutte le forme che conosciamo. Quindi le politiche vanno impostate in modo tale che i soggetti che sono destinatari di aiuti siano messi nella condizione di fare un percorso che di solito è aiutato, deve essere aiutato ed assistito dai soggetti istituzionali o del terzo settore, per poter diventare presto autonomi.